Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia in diretta anche oggi dal Vinitaly di Verona, padiglione 8, I2, I4, per chi volesse venire a trovarci. Allora, parleremo anche oggi di vino con, come anticipato ieri, i grandi produttori, parleremo però anche di borsa, dei fondi che l'Italia non riesce a spendere. È arrivato un richiamo oggi dell'Unione Europea che ci fa notare che l'Italia deve ancora spendere 7,6 miliardi di fondi strutturali, deve fare tre volte, dice la Commissione Europea, quello che abbiamo fatto l'anno scorso per arrivare a spendere il 100% dei fondi messi a disposizione, e deve spenderli entro il 2015. Questo è un caso che ormai trattiamo da anni, lamentiamo sempre l'assenza delle risorse, e c'è, e poi non riusciamo a spendere per colpa anche di chi dovrebbe sviluppare progetti efficaci, e qui mi riferisco anche alle regioni, ad alcune regioni italiane, i fondi strutturali di coesione, che sono quei fondi che l'Europa dà alle regioni più svantaggiate, con il piccolo particolare che se non li spende l'Italia nelle regioni svantaggiate, questi fondi vengono rimessi nel pacchetto complessivo europeo e vanno a altre regioni svantaggiate, all'Estremadura spagnola piuttosto che alcune regioni del Portogallo o di altri paesi dell'Unione Europea. Quindi oltre al danno anche la beffa, lo ha detto il commissario per le politiche regionali Corina Cretu, che ad aprile sarà in Calabria, Campania e Sicilia, le tre regioni che sono accusate sul banco degli imputati per non sapere sviluppare progetti, perché devono essere sviluppati e devono essere anche solidi come progetti. Abbiamo visto nel passato usare i soldi europei per cose che obiettivamente non stavano in piedi. Questo la dice lunga, e lo dico con il massimo rispetto, anche sulla pochezza degli amministratori, dei dirigenti di queste regioni, perché se tu non riesci a spendere 7,6 miliardi in un periodo di crisi, vuol dire che non sei capace di valutare progetti, vuol dire che non sai fare il tuo lavoro. Mentre dobbiamo raccontare, raccontiamo da anni, di come le regioni, alcune, anche queste che ho citato, spendono soldi per missioni improbabili, raccontavamo anche nel corso del Vinitaly, per missioni improbabili, viaggi improbabili o quant'altro. Però 7 miliardi e 600 milioni di euro restano in questo momento non spesi e decadranno al 31 dicembre del 2015. Parleremo di questo, parleremo anche chiaramente della situazione di borsa, che vede Piazza Affari in crescita dell'1,20%. Per quello che riguarda i titoli, faccio notare banalmente che il miglior titolo oggi è Monte dei Paschi, guadagna il 5,44%, segue poi Intesa San Paolo con il 3,70%, Media 7+2,70%, CNH Industrial +2,60% come Autogrill e Mediobanca, il 2% lo guadagna invece Fiat Chrysler e l'1,90% è il rialzo di Pop Milano e di World Duty Free. Chi perde? Poco, A2A -1,44%, Ferragamo -0,90%, Tenaris -0,70% come Campari, Saipem mezzo punto percentuale di calo, invariata Pirelli, cedeva qualcosa fino a un'ora fa, adesso è invariata, nel senso che il titolo è sostanzialmente fermo, -0,06%, e quindi sui livelli di ieri a 15,50 euro per azione, sopra il valore dell'OPA, e quindi con un mercato che ancora scommette che su Pirelli vi possono essere novità, eventuali controfferte. Per quello che riguarda i rapporti di cambio nei confronti del dollaro, l'euro viaggia intorno a quota 1,09, quindi stabile sui valori di ieri. Ancora andiamo sugli indici stranieri, Parigi +0,80%, Francoforte +0,90%, l'America è in questo momento invariata. Sugli indici, 349-238-6666 per i vostri sms e il sito di Radio 24 per i messaggi al programma Focus Economia. Attraverso il nuovo sito si dialoga anche con Facebook e si può anche twittare, quindi fate tutto all'interno del sito. Visto che si parlava dello scandalo, non ho problemi di definire lo scandalo, dei soldi che l'Italia non riesce a usare per le regioni svantaggiate del Sud, 7,6 miliardi. Abbiamo avuto tempo, perché è dal 2007-2008 che ce li hanno assegnati, il periodo era 2008-2013, a questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che sono in onda anche su Radio Dimensione Suono, la firma oggi del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Non giriamoci intorno, la legge obiettivo è fallita. Era la legge che doveva garantire lo sblocco delle grandi opere e indurre finalmente una rapida modernizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture in tempi certi e rapidi, cambiando marcia rispetto a un passato di lungaggini e inefficienza. Era il 2004 quando quella legge venne approvata. 10 anni e più dopo il bilancio è sconfortante. Delle opere pianificate allora e rilanciate anno dopo anno, in liste sempre più velleitarie, il complesso è poco più dell'8%. Lo dice il rapporto Cresme e quello del Servizio Studi della Camera. In 11 anni, insomma, la lista delle priorità è cresciuta alla quota faraonica di 419 interventi per un controvalore di 383 miliardi. I costi di realizzazione sono lievitati del 40%. Nel giorno del decalogo anticorruzione scritto dal commissario Raffaele Cantone, è utile ricominciare anche dall'analisi di quello che non ha funzionato nelle regole. Naturalmente quello che ha funzionato peggio è l'argine etico, oltre a quello dei controlli. Ma non ha nemmeno funzionato la legge obiettivo, per l'appunto. E l'errore principale è stato quello di affidare ai general contractor, sostanzialmente i destinatari degli appalti, anche la direzione dei lavori, che normalmente è il soggetto controllore. Il controllore, che anche il controllato, è da sempre indice di una distorsione improduttiva, soprattutto in tema di opere. E la dialettica tra appaltante e controllore è preziosa. Senza contare che al general contractor viene affidata la possibilità di intervenire, senza particolari limiti, con continui cambiamenti dei costi. Insomma, rivedere queste regole è anch'essa una grande opera, forse è la più importante. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Scrivono gli ascoltatori, guardi che per i progetti europei occorre il cofinanziamento. È vero, l'Europa dà più o meno il 50% e poi l'altro 50% va cofinanziato, però resta il tema di chi non sa sviluppare questi progetti. Poi c'è il tema che citava anche Alberto Orioli, di come abbia fallito l'ipotesi di un general contractor che sorveglia se stesso in un paese ad altissimo tasso di corruzione. Non voglio dire che tutti i general contractor siano corrotti, per carità, ma è un dato di fatto che il costo delle opere continui poi a lievitare con varianti varie ed eventuali. Poco fa sta parlando il commissario europeo il commissario italiano alla legalità Cantone, ha detto non c'è legge che tenga, il riferimento al DL anticorruzione per le pratiche corruttive. Ce ne occuperemo più avanti e vedremo anche di farvi ascoltare i 2-3 passaggi dell'intervento di Cantone poco fa e del ministro all'economia Padoan. Le altre notizie di questa giornata per quello che riguarda i mercati internazionali: il petrolio è sempre stabile a $47 al barile. Per quello che riguarda la Grecia, sarà tema di questo programma più avanti. Entro lunedì arriveranno in questa commedia, per non dire tragedia, arriveranno entro lunedì le linee guida del governo greco per le riforme chieste. L'Unione Europea, secondo varie fonti di stampa, sarebbe a questo punto propensa a dare via libera ai 5 miliardi di euro per Atene. Sul fronte invece italiano faccio notare che domani si apre il Salone del Risparmio, Radio 24 sarà presente e anche Focus Economia il giovedì, ma oggi sono usciti proprio alla vigilia dell'apertura del Salone del Risparmio i primi dati sulla raccolta del risparmio gestito gennaio e febbraio. Allora, febbraio è stata positiva per 20 miliardi di euro, che porta la raccolta complessiva dei fondi di investimento a quasi 30 miliardi da inizio anno. 30 miliardi è la differenza tra quanto è entrato e quanto è uscito. La raccolta complessiva vale 1.675 miliardi, la parte di risparmio degli italiani che viene gestito appunto dai fondi. Allora, questa mattina è iniziata all'Aula del Senato la discussione generale sul decreto banche e investimenti, quella che contiene in sostanza la riforma delle banche popolari, tanto discussa, eleva il voto capitario, eleva le soglie minime, rende contendibili le popolari. Il mondo delle popolari si è opposto dicendo in questo modo verrà distrutto il rapporto col territorio. Noi ci siamo limitati a far notare che gli scandali nel mondo bancario hanno coinvolto banche SPA e banche popolari, non si può dire che solo le banche popolari, tra l'altro la legge coinvolge quelle con più di 8 miliardi di patrimonio, quindi sostanzialmente la maggior parte sono quotate in borsa, non va a toccare le piccole BCC, i crediti cooperativi, però insomma era una linea di difesa assolutamente debole. In ogni caso la legge va, è arrivata questa mattina in aula al Senato intoccata e prevede l'obbligo di trasformazione in SPA per tutte le popolari con oltre 8 miliardi di euro di attivi, sono 10 in questo paese, solo due non sono quotate, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, e potranno comunque decidere le banche di adottare un tetto del 5% ai diritti di voto. Ne parleremo fra poco, anzi ne parleremo fra poco perché parleremo di vino con chi però è anche presidente di una banca popolare importante, qualcuno di voi ha già capito. Allora iniziamo con il tema del vino, 349-238-6666 per gli sms e poi il sito di Radio 24 per intervenire sul programma. Allora, continua il nostro viaggio nel vino oggi con i grandi, grandi produttori. Ci ha raggiunto in studio il presidente della Zonin Agricola, che è anche presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. Buonasera. Buonasera, dottore. Anche presidente della Popolare di Vicenza, e una domanda sulla riforma delle popolari dopo gliela faccio, si mette il cuore in pace. Però prima stiamo sul vino, così partiamo leggeri. Avete come fatturato nel 2014... siete cresciuti di un altro 4%, 160 milioni di fatturato, 161 milioni di fatturato, che può sembrare poco a chi si occupa di industria in senso lato, ma è un fatturato enorme nel mondo del vino, dove le dimensioni sono molto più piccole rispetto a altri settori produttivi. Di questi 160 milioni di euro, 125 milioni arrivano dall'export, per cui quasi l'80% del vostro fatturato è fatto fuori dall'Italia, in oltre 110 paesi, 43 milioni di bottiglie prodotte in 2000 ettari distribuiti su 9 tenute in 7 regioni italiane. Quindi lei ha una fotografia molto ampia, come ogni anno ce la racconta, della produzione vitivinicola italiana, ma anche e soprattutto delle quote export. Il vantaggio che vi darà il dollaro lo stiamo sopravvalutando? Non riuscite a trasferire questo 30% in meno tutto sul mercato? Presidente Zonin. Ma il vantaggio del dollaro indubbiamente per la moneta europea e per l'Italia è sicuramente un fatto positivo. Devo dire che non per tutte le aziende, perché la mia per esempio ha accompagnato la discesa del dollaro vendendo in anticipo i dollari per garantirsi un cambio sicuro. Questa è una politica che fanno molte aziende che non vogliono soffrire dei cambi, perché oggi il dollaro è forte ma magari fra sei mesi lo è meno, e quindi bisogna agire con prudenza e noi cambiamo per esempio con un anticipo di quasi un anno quando vediamo che il cambio è corretto per i calcoli che noi abbiamo fatto sui costi. Quindi lei dice attenzione, non possiamo neanche andare a vendere seguendo le fluttuazioni di mercato perché il rischio è troppo alto, e immagino mi passi il termine, si incasini anche tutto il rapporto con i distributori, perché uno non sa più a quel punto a che prezzo vendere. Però come aree di sbocco, il fatto che indubbiamente il dollaro sia forte vi permetterà di aumentare secondo lei le quote in area dollaro, che vuol dire Canada, Stati Uniti in primo luogo, ma non solo? Ma io non credo, perché il Canada compra in euro da noi, e quindi il vantaggio eventualmente è sul il monopolio canadese. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il nostro importatore è la zona USA, e quindi voglio dire i valori non cambiano, i prezzi non cambiano. Certo, perché la vostra controllata statunitense. Operiamo con vendite anticipate dei dollari, quindi la nostra non è così grande il vantaggio per la nostra azienda. È evidente però che in generale per il settore, per chi opera nel mercato dollaro, questo è per il momento, finché dura questi valori molto alti del dollaro con un cambio così favorevole per noi è un fatto che si ripercuoterà favorevolmente sull'economia italiana. Ecco, dopo di lei ci raggiungerà in studio Albiera Antinori, che ha anche un fatturato vicino al vostro, 169 milioni di euro. Perché vi cito? Perché se dobbiamo pensare a uno sbarco serio del vino italiano su mercati distanti, penso ai mercati asiatici in questo caso, dove non esiste la rete dei ristoranti della ristorazione italiana che tanto vantaggio vi ha dato negli Stati Uniti ma anche in Canada, beh, dobbiamo per forza pensare ai gruppi con le spalle dal punto di vista di fatturato più grosse, più solide, e voi, Antinori, Cavit e gruppo Santa Margherita, se li cito in ordine sparso, siete quelli che hanno i fatturati più consistenti. Ce la riuscite a fare con le vostre forze su mercati così difficili? E avete mai pensato di ricorrere, qui lo chiedo anche nel doppio ruolo di Presidente della Popolare di Vicenza, di ricorrere al mercato, di quotare il titolo Zonin in borsa? Ma, rispondo per l'ultima sua osservazione, all'ultima sua domanda. Il mondo del vino difficilmente si avvicina alla borsa. Poi le dirò che il consumatore ama vedere una famiglia dietro un'etichetta di vino, e questo per noi è molto importante e quindi ci tiene un po' lontani dalla borsa. Dirò anche che gli investimenti nel mondo del vino sono elevati e danno dei ritorni a lunga scadenza, cosa che la borsa invece non accetta normalmente e vuole ritorni a breve scadenza. Quindi questo è un po' per quanto riguarda la borsa. Per quanto riguarda i mercati asiatici, dove saranno spalle? Guardi, la vedo un po' scettico sui mercati asiatici. No, io credo che molti piccoli produttori stanno cercando adesso di raggrupparsi, di consorziarsi, di aggregarsi per affrontare insieme i mercati. Non è una cosa facile. Io sto pensando a un'altra soluzione. Noi siamo presenti in 7 regioni diverse d'Italia, offriamo una gamma di vini italiani quasi completa in tutte le parti del mondo, ma come ha detto lei siamo ancora piccoli, 160 milioni, 170, 180, non sono una cifra che ci consente di operare con grande forza sul mercato. Allora noi dovremo guardare in futuro alle aggregazioni o ai consorzi con altri produttori dell'agroalimentare, mi riferisco ai formaggi, mi riferisco alle carni, mi riferisco alla pasta. E quindi noi dobbiamo presentare insieme il Made in Italy agroalimentare. Io credo che i prossimi 10 anni le aziende, se vogliono diventare forti, devono guardare in questa direzione. E quindi unire non solo il vino ma anche altri settori di forza del Made in Italy. Ieri se ne ragionava con il Ministro, perché non fare operazioni, alcune si stanno già sviluppando, in cui metti assieme la moda, il legno arredo e quindi il design, oltre che il vino. Presidente Zonin, però il tema dei capitali mi porta a ragionare anche del rapporto imprese vitivinicole e territorio e di come le banche assistono le imprese vitivinicole e territorio, e cioè, con un volo neanche troppo pindarico, la riforma delle banche popolari. Allora, la vostra categoria, il mondo delle popolari, ha detto, noi eravamo molto scettici e critici su questa linea, attenzione, con la riforma che il governo ha presentato si distrugge il rapporto banca e territorio. Allora, fermo restando che la riforma riguarda solo le popolari sopra gli 8 miliardi e quindi la maggior parte sono già quotate, mi sembra un po' una linea difensiva debole dire che tu difendi il territorio solo se sei banca popolare col voto capitario, come se le altre banche non lo facessero. Gli scandali hanno riguardato banche SPA ma hanno riguardato anche banche popolari, non devo fare la lista adesso. Allora, su questo, come vi state preparando? Ritiene realmente che vi possa essere un problema a quel punto di venire in meno del rapporto della banca col territorio solo per una riforma che va a levare il voto capitario e le soglie di possesso? Ma guardi, quello che sta succedendo nel mondo delle banche popolari è una rivoluzione. Io concordo con chi critica l'associazione delle banche popolari che non si è mossa in tempo per anticipare un cambiamento meno radicale e meno repentino, però ormai quello che è successo in questo passaggio a un controllo e un regolatore europeo anziché alla Banca d'Italia per le banche di grandi dimensioni, che cosa possiamo fare? Non è vero che ci sono le banche del territorio perché sono popolari, è vero che ci sono banche di dimensioni minori che sono più attente alla piccola clientela nel territorio, perché questa è una tradizione dei popolari, è una tradizione che ha dato i suoi benefici, per esempio fino a 30 anni fa in provincia di Vicenza c'erano 8 banche popolari e la provincia di Vicenza è diventata la terza provincia industriale d'Italia, e questo sicuramente è stato merito anche di questa vicinanza che 8 banche popolari hanno dato ai piccoli industriali, ai piccoli artigiani e agli agricoltori. Allora, che cosa dobbiamo fare? Intanto le aziende devono aumentare di dimensione, perché c'è una polverizzazione delle dimensioni delle aziende, delle imprese produttive. Allora questo è, e credo che anche le banche devono fare questo. Lo faranno senza avere più il voto capitario, ma con il voto per azione. Quindi è una cosa che secondo me dobbiamo accettare, ci stiamo preparando, ci stiamo attrezzando, e io credo che dipenderà dalla filosofia di chi comanderà le future banche popolari trasformate, e dipenderà molto da avere dei bravi funzionari, dei bravi dirigenti che riescono a trasmettere e a conservare la filosofia delle popolari nei confronti dei clienti. Due domande rapidissime: lei resterà presidente della Popolare di Vicenza? Ma guardi, sì o no? Lei deve chiederlo a chi dà il voto, non deve chiederlo a chi prende il voto. Comprerete Veneto Banca? Le porte sono aperte per aggregazioni, per stand alone, per guardare anche in altre direzioni. Abbiamo dato incarico a Mediobanca come advisor per suggerirci le migliori soluzioni, e sono certo che troveremo la strada corretta per tutti. Grazie, grazie al Presidente. Prego. Della Casa dei Vinicola Zonin, Gianni Zonin. Adesso andiamo sulla pubblicità. Mi fanno notare che c'è anche la Popolare di Bari, e va bene, tra le banche popolari non quotate, non mi sembra però che sia coinvolta in questa riforma, perché per quello che a noi risulta le banche popolari coinvolte sono Popolare di Milano, Vicenza, Banco Popolare, UBI, Veneto Banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, e appunto la Popolare di Bari e la Popolare dell'Etruria del Lazio, che ha tutto un altro insieme, lo dico e rispondo anche ad alcuni sms, ha tutto un altro insieme di problemi, ma è coinvolta nella riforma che questa mattina il Senato ha iniziato ad esaminare. Intanto il meteo. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta qui dal Vinitaly, padiglione 8, stand I2 e I4, ultima puntata di Focus Economia dal Vinitaly. Domani però ascolteremo un collage, diciamo così, di tante altre interviste che abbiamo fatto con i produttori. Restiamo sui grandi, la borsa intanto ha chiuso più 1,20% nel finale Milano, con, come ricordavamo in apertura, Monte dei Paschi in evidenza più 5,52%. Dicono alcuni operatori, si specula sull'uscita di Profumo, più 5,52%, non che sia la prima volta che ascoltiamo l'ipotesi che Profumo possa lasciare la presidenza di Monte dei Paschi. Mi sembra un po' tanto il rialzo solo per un'uscita di un presidente. Comunque Intesa San Paolo più 3,40%, Media 7 più 3,20%, Mediobanca più 2,81%. Ma dicevo, restiamo sui gruppi di grandi dimensioni nel mondo vitivinicolo. Ci ha raggiunto Albiera Antinori, vicepresidente appunto della Marchesi Antinori. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come sempre una brevissima scheda verbale, chiaramente 170 milioni di euro quasi di fatturato, una quota dell'export per il suo gruppo che si avvicina al 70%, 66% per la precisione, 22 milioni di bottiglie prodotte nel 2014. Il fatto che siate su due terzi all'export la dice lunga su come si siano mossi in questi anni i grandi gruppi. Il vantaggio che vi arriverà dall'euro, quanto lo sfrutterete, e soprattutto poi arriviamo anche agli elementi più delicati di criticità. Prego. Beh, certamente il fatto che il dollaro in questo momento ci può dare un indubbio vantaggio per gli Stati Uniti, che rimane comunque il maggior mercato di vini di qualità. Questo non vuol dire che il problema sia risolto, cioè non bisogna pensare che con questo tutte le vendite andranno in quella direzione. Bisognerà continuare a investire in termini di di fare cultura, di spiegare, di andare a visitare i mercati, anche perché ce ne sono tanti che sono come l'Asia, da sviluppare veramente, quindi non c'è mai solo un posto che risolve i problemi. Ecco, sull'Asia, tra l'altro, si diceva, il rapporto Mediobanca prevede un aumento dell'export del 17% complessivamente per le aziende vitivinicole italiane. C'è un piccolo problema in Asia, ancora più sentito rispetto agli Stati Uniti, dove invece avete tutta la grande rete dei ristoranti italiani che fa e ha svolto un ruolo fondamentale in questi anni di rete commerciale. In Asia non c'è una rete di ristoranti italiani così capillare, ma neanche mai ci sarà, come negli Stati Uniti, e lì le dimensioni contano. I francesi arrivarono, se non ricordo male, come prima missione nel 92 in Cina. Ora non si vuole rincorrere quello, però è chiaro che il tema dimensionale, quando ti manca il supporto dato dall'enogastronomia italiana, diventa ancora più forte. Come e quali strategie il gruppo Antinori sta applicando e sviluppando per il mercato asiatico, con tutte le complessità che comporta un mercato così esteso, lungo, con consumatori ancora potenziali, ma non tutti, diciamo, sviluppati? Credo che il mercato asiatico è oggi il punto di domanda di tantissimi paesi produttori, eccetto i francesi che l'hanno affrontato prima e come al solito l'hanno affrontato molto bene. Intanto in Asia bisogna distinguere tra la Cina e tutto il resto. Tutto il resto, diciamo che siamo già meglio messi: Hong Kong, Singapore, la Corea, il Giappone e anche altri paesi più piccoli che si stanno sviluppando con ritmi positivi. Ma senza tutta questa grossa incertezza che c'è in Cina, perché intanto la Cina è un paese gigantesco che non ha una cultura alimentare legata al vino, quindi se si parla di piccole, di grandi bottiglie, piccoli numeri, ci sono i collezionisti e sono persone che poi viaggiano e quindi conoscono e utilizzano il vino come status symbol, ma che non ha niente a che vedere con quello che è il consumo reale. Quando arriverà il consumo reale, allora dovremmo, si spera, aver già impostato le basi, quindi essere andati lì, aver spiegato, raccontato, insegnato, creato una classe di sommelier, spiegato che cos'è l'Italia, perché l'Italia effettivamente, l'Italia vinicola è difficilissima da far capire, quindi ci deve essere un grossissimo lavoro di informazione. Bisogna creare una rete distributiva, perché in realtà non c'è niente, non ci sono degli operatori qualificati. C'è una battaglia su tutto e su tutti, che anche per una questione culturale è proprio difficile da affrontare. Ecco, a questo proposito, anche lei riconosce, pur essendo voi un gruppo che per quello che riguarda i gruppi vitivinicoli italiani siete enormi, non siete grandi a livello mondiale, perché sappiamo che i gruppi australiani e americani hanno altre dimensioni, però 170 milioni di euro di fatturato è una dimensione molto molto importante in Italia, e però la liquidità è necessaria soprattutto in quei mercati. Avete mai pensato alla quotazione in borsa? No, cioè sì, abbiamo analizzato sicuramente. Per quello che riguarda noi, la quotazione in borsa è una cosa che non ci ha mai attirato, non ci ha mai interessato, perché riteniamo che un'azienda familiare e agricola non possa reggere una quotazione in borsa, perché i ritmi diciamo ogni 4 mesi di risposta degli azionisti e un confronto non si combina bene con quello che è l'agricoltura e l'agricoltura di qualità, perché ci può essere un anno in cui non si produce niente perché la qualità non è all'altezza, e questo è in contrasto con le regole. C'è troppo a breve respiro l'investimento finanziario. Sì. Senta, lei è la nuova generazione degli Antinori e chiaramente sta raccogliendo, senza nulla togliere a Piero Antinori, suo padre, sta raccogliendo tutto, anche la responsabilità che questo passaggio generazionale comporta. I vostri padri hanno creato, inutile girarci attorno, il successo del vino italiano negli ultimi 20 anni. Diciamo, noi lo datiamo, voi come azienda avete una storia, diciamo, che va leggermente al di là di questo. Però parlo del settore complessivamente dato: dallo scandalo del metanolo in poi l'Italia decide di puntare sui vini di qualità. E l'abbiamo raccontato in questi anni. La responsabilità che lei sente, soprattutto gli errori o i rischi che rischiate di correre, visto che tutti vi incensano, siete bravissimi, siete l'unico settore che non ha perso quote e fatturato nemmeno nel 2009. Ecco, lei vede un rischio in questo eccesso di attesa, eccesso di compiacimento? Ma credo che almeno per il caso nostro la lunga storia ci ha insegnato che l'eccesso di compiacimento è velenosissimo, quindi questo cerchiamo di evitarlo accuratamente. E anche la nostra lunga storia ci ha insegnato che ci sono gli anni positivi, ma dopo gli anni positivi è matematico che ci siano gli anni negativi, quindi tutto quello che uno fa negli anni positivi deve anche metterlo da conto e da parte per prepararsi per gli anni negativi, ed è quello che stiamo facendo. Ma se lei dovesse giudicare il settore complessivamente dato, l'errore che rischiate di commettere adesso, sentivi troppo forti, non investire più in qualità o in dimensione, quale di questi? Ma possiamo fare una lunga lista, ma certamente l'avere l'idea che ormai il vino buono che facciamo in Italia sia ormai arrivato, che non possa migliorare ancora da un punto di vista qualitativo, questo è un errore fondamentale. Avere un pochettino la presunzione che l'Italia è comunque conosciuta e che quindi non serve andare visitare altri mercati, far conoscere, spiegare e solo aspettare che qualcuno venga qua, può essere un altro errore colossale. Esistono poi errori di non insistere con chi ci governa e l'Europa su semplificazione, su altri temi che sono importanti, la protezione dei prodotti italiani, l'anticontraffazione, quindi di temi del futuro ce ne sono tantissimi, con delle variabili che forse la generazione di mio padre non aveva, che possono essere per esempio internet, che ha praticamente rivoluzionato il modo di comunicare del vino, e anche l'esposizione che hanno i produttori e i prodotti, che è una bella cosa ma può essere anche pericolosa. Il mercato più promettente, dell'ultima domanda che ho per lei, quest'anno per voi quale sarà? Di nuovo gli Stati Uniti? Direi di nuovo gli Stati Uniti, ma anche l'Asia avrà sicuramente, io sono convinta che ci darà dei buoni risultati, forse non proprio l'anno prossimo, ma la tendenza è quella. Grazie allora alla vicepresidente della Marchese Antinori, Albiera Antinori. Grazie. E adesso andiamo verso le informazioni sul traffico, poi ancora un grande produttore, poi la borsa e gli altri temi. Barisoni, lei è un classico esempio del radical chic, dalla presunta superiorità intellettuale, ma in realtà è un mediocre giornalista, lecchino e ruffiano. Bene, vedo che il programma le piace. Traffico. Focus Economia. Allora, ultima intervista di oggi al Vinitaly, e mi riferisco a Sandro Boscaini, che da un lato è presidente di Federvini, dall'altro presidente amministratore delegato della Masi Agricola. Esportate il 90-95% della produzione, una cifra enorme quanto a quota export. Buonasera. Buonasera. Quanti vini fate come Masi Agricola e Sergio Leghieri? Bottiglie. Sono circa 12 milioni di bottiglie. Prevalentemente vini veronesi, ma anche vini, diciamo, che coprono l'area più ampia, quella delle Venezie, avendo nel nostro bouquet di produzione anche la Bossi Federigotti di Rovereto e vigneti in Friuli. Per un fatturato complessivo? Per un fatturato complessivo che si aggira mediamente negli ultimi anni dai 60 ai 65 milioni di... Ecco, la cosa che impressiona della Masi Agricola è la quota export, perché il mondo del vino è tutto un mondo già molto vocato all'export, abbiamo raccontato e intervistato produttori che hanno quote tra il 60, 65, il 70%, voi arrivate al 92%, cioè su 100 bottiglie 92 escono dall'Italia. Questo vuol dire che i consumi interni per voi italiani sono poca cosa, sono abbastanza irrilevanti, ma soprattutto vuol dire che vi attendete un grosso boom dall'euro debole? Beh, allora diciamo che in effetti la nostra quota italiana è sproporzionata, bisogna dirlo, rispetto all'estero, ma è anche volutamente sproporzionata nel momento in cui noi non riteniamo che l'immagine del prodotto sia salvaguardata in via generale nel supermercato italiano come è organizzato oggi per lo scaffale vino, ad eccezione di alcune insegne. Ecco, per cui noi cerchiamo e rimaniamo ancora fedeli a una distribuzione qualificata, la distribuzione attraverso la ristorazione, attraverso le bottiglierie e gli wine bar. Questo ci punisce leggermente, diciamo, sul piano dei numeri in Italia. All'estero siamo obiettivamente forti, siamo forti anche perché abbiamo fatto una politica decisa per tutti i mercati, siamo presenti in più di 90 paesi del mondo, ovviamente quelli che di più corrono sono i soliti, cioè la Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera, il Canada, da pochi anni ma con grandi soddisfazioni la Scandinavia. In questi paesi facciamo anche una politica di scaffale, scegliendo però i supermercati che hanno un livello, o la grande distribuzione che ha un livello di preparazione che ci dia soddisfazione dal punto di vista dell'immagine del nostro prodotto. C'è da aggiungere un'altra voce che sicuramente è il connotato di questa cifra che sembra troppo alta, il 92%, i vini veronesi obiettivamente hanno una esportabilità storicamente molto alta e l'Amarone ha un 85% di mercato all'export. Noi siamo leader nella produzione dell'Amarone e ovviamente ne abbiamo vantaggio. Ecco, su questo vorrei chiudere, come sempre facciamo con tutti gli intervistati, anche sui possibili rischi o errori. L'errore che un settore che va così bene si sieda è dietro l'angolo, cioè che pensi di aver già raggiunto il massimo o di vivere di rendita. E un altro errore più pernicioso, di cui parlavamo anche con chi rappresenta il Prosecco, che ha avuto una crescita pazzesca, 260% negli ultimi anni, è di inflazionare un prodotto, cioè di andare tutti su un tipo di vino perché lì ci sono i margini, perché lì c'è l'effetto moda. Io questo rischio, seppur con proporzioni minori, lo vedo un po' anche sull'Amarone, cioè se noi iniziamo ad avere delle produzioni di Amarone che vanno e tengono assieme Amaroni che non c'entrano nulla sia come prezzo sia come qualità, c'è il rischio di confondere poi il consumatore finale. Come si fa a tenere assieme il giusto richiamo e interesse a produrre, a vitare un vino che è importante, un vino che dà valore aggiunto, un vino che è diventato famoso, senza inflazionarlo e fare una specie di così utilizzarlo in maniera troppo a breve termine? Beh, obiettivamente uno dei temi è appunto questo, è uno dei problemi è questo, far sì che il successo si consolidi e rimanga un successo nel tempo e che l'Amarone diventi un classico, non un fenomeno di successo nel breve. Ne avrebbe tutti i numeri da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista della grande storia che racconta, è uno dei vini in cui il Made in Italy è forse più rappresentato che in altri, come territorio, come uve, come sistema di produzione così originale. Certamente occorre una politica che lo sappia difendere e che lo sappia mantenere nelle posizioni che gli spettano, cioè in una posizione alta e medio alta del mercato, senza fughe in avanti dovute appunto a una produzione che cavalca invece il momento favorevole. Chiaramente ci auguriamo che il consorzio riesca in questa politica. Finora devo dire non è mai riuscito e per questo è nato anche questo gruppo di pressioni, chiamiamolo così, e di buona volontà, le famiglie dell'Amarone d'arte, che tentano di dare un messaggio e di dare un'allerta. L'Amarone va protetto rispetto ai numeri che si fanno, rispetto alle zone di produzione e rispetto alla sua immagine. Grazie, in bocca al lupo a Sandro Boscaini, appunto presidente di Federvini e amministratore delegato e presidente della Masi Agricola. Grazie a voi. E adesso GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta dal Vinitaly per l'ultima parte di Focus Economia. Adesso però non ci occupiamo più di vino e né di banche popolari, perché con Zonini anche questo abbiamo trattato, la borsa e poi anche gli sviluppi della vicenda greca e le dichiarazioni anche di Cantone e del ministro Padoan per quello che riguarda la legge anticorruzione. Partiamo dalla borsa. Il caso oggi non è Pirelli. Pirelli era molto tranquilla, leggermente negativa, ha chiuso praticamente invariata, prezzo finale meno 0,20% a 15,46 euro, quindi sempre sopra il livello dell'OPA. La borsa dell'OPA annunciata è più 1,20% Milano, devo dire in linea con, anzi un po' più forte rispetto a Parigi, più 0,70, e a Francoforte più 0,90. Il motivo, beh, Monte dei Paschi più 5,52%, Intesa San Paolo più 3,40, Mediaset più 3,20, Mediobanca più 2,80, CNH più 2,60, Autogrill più 2,5, Pop Milano più 2,1, Exor più 2% come Moncler. Allora, Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Monte dei Paschi, che è la speculazione perché esce, potrebbe uscire il presidente Alessandro Profumo? Ci sono state diverse notizie che hanno riguardato MPS, alcune appunto come queste indiscrezioni sull'uscita di Profumo e più che altro che sarebbe stato già individuato eventualmente un suo successore. Poi si è parlato del fatto... Bini Smaghi? Sì, era uno dei nomi fatti, sì, comunque ancora non c'è certezza, sono proprio indiscrezioni, era stato uno dei nomi paventati diciamo in questi giorni. E poi oggi c'è stata l'audizione in Commissione Finanza al Senato di Giuseppe Vegas, il presidente della Consob, che ci ha fatto degli accenni a questa possibilità di creare una bad bank. Lui è tornato a parlarci, ha detto che si potrebbe fare comunque con un maggiore coinvolgimento dei privati rispetto a modelli che sono stati usati all'estero, garantendo comunque eventualmente una garanzia pubblica, e diciamo questa cosa un po' ha risvegliato qualche interesse, dicendo che probabilmente si potrebbe, magari questa soluzione potrebbe essere più vicina, tanto che anche Carige, che è una delle altre banche che potrebbero essere interessate maggiormente da questa, se venisse creata questa bad bank, è salita del 2,41%, mentre invece per le altre banche diciamo c'è stato acquisti, hanno premiato diciamo tutte le banche europee, soprattutto quelle della zona euro, che secondo alcuni analisti hanno beneficiato anche loro di questi dati positivi che sono arrivati da parte dell'economia reale, dal dato sull'indice manifatturiero. Sì. E quindi diciamo gli acquisti sono stati generalizzati, in più in Italia sono andati a concentrarsi per esempio su alcune banche popolari proprio in vista di questa riforma. Esatto. Beh, oggi appunto, come ricordavamo nella prima ora del programma, la legge è arrivata al Senato, abbiamo sentito anche il commento appunto del Presidente della Popolare di Vicenza, e infatti oltre ai titoli citati c'è stata una concentrazione sulla Pop Milano di nuovo più 2,13%. Un altro titolo che non c'entra nulla col mondo bancario che va oggi bene è il gruppo Fiat, CNH, Fiat Chrysler più 2,60, Exor la controllante più 2% e Fiat Chrysler più 1,70%. Sì, esattamente, in particolare CNH e Fiat hanno beneficiato anche loro di degli acquisti che hanno premiato gli industriali europei, tanto che è andato bene, il settore auto è andato molto bene in Germania, è andato bene in Francia, e poi qualcuno parlava anche di un effetto Pirelli, per esempio, cioè Pirelli negli ultimi giorni è salita quasi dell'8% grazie alle notizie sull'OPA, e oggi per esempio anche Continental e Michelin, che sono due concorrenti, una tedesca e una francese, sono andate bene in borsa, e quindi si parlava di un effetto che può essere andato a pioggia un po' sui titoli legati al settore auto, anche se poi è arrivato questo dato del PMI che probabilmente ha contato di più su tutti i titoli industriali, tanto che è salita Volkswagen, Renault e appunto come dicevamo le stesse Continental e Michelin. Ancora, per quello che riguarda invece visto che tu citavi Pirelli, oggi il titolo è poco mosso, ma è arrivata qualche indicazione poco mossa, intorno, sempre però sopra il livello dell'OPA, Flavia. Sì, esattamente, questa è la cosa, e comunque continua a rimanere sopra i 15 euro, ha chiuso a 15,46 euro oggi, c'è stata più che altro probabilmente il mercato adesso sta cercando di interrogarsi su cosa succederà, diciamo, anche se l'offerta comunque scatterà solo dopo l'estate e dopo lo stacco della cedola, e comunque alcuni analisti hanno iniziato a valutare quale potrà essere la situazione, in particolare Credit Suisse è una di quelle che si è spinte oltre, sostenendo che il titolo può valere 20 euro per azione, e soprattutto se la società si focalizzerà su quelli che è il settore premium dei pneumatici, e poi ha detto che potrebbe addirittura valere ancora altri 2 euro in più rispetto 20 euro se facesse eventualmente un'alleanza anche per andare ad abbracciare altri settori come quello dei camion, quindi proprio si fa proprio oltre quella che è l'ipotesi dei 15 euro per azione dell'OPA, si sono proprio spinti a fare scenari ancora. ancora più avanzati. Oh, da Pirelli a un titolo molto sottile, ma soprattutto che oggi ha debuttato, c'è una matricola in borsa, Caleido, servizi turistici, com'è andata? Beh, ha fatto un vero boom, oggi era partita con un rialzo del 23%, per chiudere con un rialzo del 55,3%, quindi un grande festeggiamento in borsa per questo esordio. È una matricola che è esordita all'AIM, che è il mercato alternativo dei capitali, e una piccola società appunto ha raccolto con la sua quotazione 1.450.000 euro, scusate, ha un flottante di poco meno del 20% e la capitalizzazione prima della quotazione era stimata circa a 7.5 milioni di euro. Allora, negativi oggi Aduamen 1,30%, Salvatore Ferragamo meno 1%, Campari meno 1, Tenaris meno 0,60%, Saipem meno 0,30% e Banco Popolare meno 0,28% anch'esso. Euro su dollaro a quota 1,09, vi do l'aggiornamento in questo istante, 1,09,3, per cui sostanzialmente sui livelli di ieri. Grazie a Flavia Carletti, Radio Corriere sulle 24 ore. Il traffico e poi l'ultima parte di Focus Economia, tra il DL anticorruzione, l'accordo presunto sulla Grecia. Focus Economia. Allora, a breve il Ministero dell'Economia e delle Finanze, lo ha confermato oggi il Ministro dell'Economia Piercaro Padoan, varerà una direttiva anticorruzione che tutte le partecipate, quindi tutte le società in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Tesoro, ha una quota, Eni, Enel e quant'altro, di meccanica, dovranno e saranno tenute ad applicare la direttiva anticorruzione. Dicevo, l'ha ricordata oggi il ministro Padoan, indicandola come una riforma strutturale profonda. Mi aspetto che appunto tutte le aziende la applichino, è una direttiva nell'interesse pubblico. Nel presentarla il ministro ha ricordato questi aspetti, ma era presente anche il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, che ha detto: attenzione, tutto bene, però le linee guida e l'intesa anticorruzione che il Ministero dell'Economia e Finanze e l'anticorruzione guidata appunto da Cantone hanno presentato non hanno e non possono avere una funzione salvifica. Queste linee guida si applicheranno soprattutto e anche alle società pubbliche, le società miste, le società gestite dagli enti locali, che sono spesso oggetto di tante critiche. E lì ovviamente il nostro interesse è che queste norme si traducano in comportamenti. Io faccio una valutazione complessiva. Io credo che sul piano della prevenzione dell'anticorruzione è stato fatto tantissimo. Stamattina, uscendo e guardando oggi che giorno era, oggi è 23 marzo. Il 23 marzo dell'anno scorso nessuno nemmeno sapeva che esistevano autorità che si chiamava anticorruzione. È passato poco meno di un anno, io sono entrato in servizio il 28 aprile, questa autorità è stata implementata dai poteri. Ovviamente chi si aspetta da noi funzioni salvifiche sbaglia, ma noi stiamo provando a mettere in campo una serie di cose. Questi sono fatti, c'è molto ancora da fare sul piano normativo, ma partendo però da un'idea, le norme non hanno funzione salvifica. Chi fa intendere domani che quando sarà approvato un disegno di legge la corruzione sarà vinta, rischia di creare aspettative nei cittadini che non sono così. La legge anticorruzione, sia quella penale sia le altre norme che pure ci sono in Parlamento, sono utilissime, ma sono un pezzo del sistema. Non c'è nessuna legge da sola in grado di vincere la corruzione. Sempre Cantone ha poi precisato che l'applicazione delle linee guida non è delegata alle società, non è che ogni società si metta ad applicarle, ed è anche, o meglio, le eventuali mancanze potranno anche essere sanzionabili. L'applicazione delle linee guida non è delegata alle società, l'applicazione delle linee guida è delegata ai controlli che faremo e in alcuni casi sono anche previste sanzioni. Ma noi ovviamente non abbiamo nessun interesse a che vengano irrogate sanzioni, noi ci auguriamo di una spontanea e volontaria applicazione. noi non interessa applicare le sanzioni, a noi interessa che queste regole servano a giustificare un cambiamento nei modi di essere e di operare. Noi crediamo che le società pubbliche siano un pezzo del pubblico e che quindi come tale si debbano comportare nella parte in cui fanno attività pubblica. Quindi non ci preoccupiamo di sanzioni, speriamo anche con la loro collaborazione che questo sia un passaggio ulteriore per un cambiamento del sistema. Noi faremo i controlli non appena le linee guida entreranno in vigore, ovviamente noi ci vogliamo confrontare con le società su molti aspetti, noi sappiamo bene che le norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione sono state create e volute pensando agli enti pubblici e quindi dobbiamo essere in grado di calarle alle società che devono essere strumenti dinamici, sono strumenti dinamici. Questo è il fronte anticorruzione, mentre adesso arriviamo anche alla Grecia, però vorrei fare ascoltare, lo facciamo domani perché ho un approfondimento sull'industria bergamasca che mi interessava, sull'andamento del manifatturiero. No, spostiamoci alla Grecia veramente, perché sennò poi il tempo a nostra disposizione è veramente corto. La Grecia presenterà il pacchetto di riforme ai suoi partner dell'area euro entro lunedì 30 marzo, questo nella speranza di sbloccare gli aiuti finanziari che le occorrono per affrontare la crisi di liquidità e eliminare l'eventuale rischio di un default. Ieri a Berlino, l'avete letto sui giornali, l'incontro tra il premier greco Tsipras e la cancelliera tedesca Angela Merkel, oggi un portavoce ha confermato, insomma, la Grecia presenterà le riforme. Siamo in collegamento con Francoforte, dove c'è il corrispondente sulle 24 ore, Alessandro Merli. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Nel dare un giudizio finale, Alessandro, della cosa, perché questa vicenda ormai si trascina da tante di quelle settimane che è difficile anche seguire i vari capitoli, ieri Angela Merkel ha detto vogliamo una Grecia forte economicamente che cresca, oggi la stampa greca dice che stanno per arrivare 5 miliardi dell'Unione Europea ad Atene e dovrebbe essere sbloccata questo tranche già da venerdì dall'Eurogruppo. È brutto fare la domanda così, però insomma, vincitori e vinti? Ma diciamo che ieri non è successo molto, se vogliamo dire che è stato un 0-0, un 1-1, perché in realtà c'è stato molto progresso di forma e poco di sostanza, nel senso che dopo che si sono presi a male parole per settimane, soprattutto i due ministri delle finanze, Schäuble e Varoufakis, insulti a mezzo stampa, polemiche di ogni genere, almeno ieri tra Merkel e Tsipras è stato ristabilito un tono civile di relazioni fra due paesi che fanno parte della stessa Unione Monetaria, della NATO, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che la Merkel ancora una volta ha fatto vedere che ci tiene a tenere la Grecia nell'euro, però non evidentemente a qualsiasi costo, infatti ha ribadito che il problema non è bilaterale Germania-Grecia, ma che il problema deve essere risolto all'Eurogruppo e che almeno i greci diano un segnale e forse lo daranno con la presentazione di questa lista di riforme, ma poi diciamo che non solo la Germania ma tutti gli altri 18 membri dell'Eurozona sono preoccupati che la Grecia annunci ma poi non faccia nulla, perché questo è un po' quello che si è ripetuto negli ultimi anni. Sì, e questa è la preoccupazione complessiva. Tra l'altro, su questo tu ricordavi che c'era stato uno scambio pesantissimo a livello quasi di insulti tra Schäuble, ministro delle finanze tedesco, e Varoufakis. Tu hai avuto la sensazione che a questo punto il passaggio sia passare a livello dei capi di governo, Merkel e Tsipras, abbia permesso anche così di sfiammare, di addolcire leggermente i rapporti, visto che ormai dopo alcune dichiarazioni non si riusciva a capire come si sarebbe potuta avere una riconciliazione tra i due ministri delle finanze? Ma credo che quello fosse l'intento. Secondo me a un certo punto la signora Merkel si è resa conto che si rischiava, senza che ci fosse nessun evento particolare, ma solo con questo dilagare di insulti e di acrimonia fra le due parti, che poi la Grecia scivolasse fuori dall'area dell'euro solo e semplicemente per questi toni che poi inevitabilmente finiscono per ripercuotersi sui mercati, sui depositanti greci, eccetera. Quindi ha preso in mano lei il dossier, cioè ha detto non si può andare avanti così, visto che comunque c'era questa incompatibilità totale fra Schäuble e Varoufakis, vediamo di parlarne fra di noi, almeno per ristabilire un tono di civiltà nella conversazione. Che poi questo serva effettivamente a sbloccare la situazione della Grecia, lo vedremo appunto fin dalle prossime riunioni dell'Eurogruppo. Almeno però si è ristabilito, si è dato un segnale di buona volontà, ecco, diciamo, da entrambe le parti, fermo restando che le posizioni mi sembra che siano abbastanza... Ecco. Restano ancora abbastanza diverse, però lo sblocco dei fondi, perché insomma, se Atene non riceve questi 5 miliardi, la situazione entro il 31 marzo si complica parecchio. Da quello che anche tu hai appreso, dovrebbe essere l'Eurogruppo di emergenza, in una riunione di emergenza di venerdì, a dare via libera a questo punto? Non sappiamo se l'Eurogruppo sbloccherà questi fondi. L'Eurogruppo ha sempre detto che avrebbe fatto una mossa o una volta che ci fosse dalla Grecia qualche garanzia che queste riforme partivano, qualche segnale insomma di maggior determinazione a fare questa cosa. Ora non sono sicuro che l'Eurogruppo sblocchi i fondi lunedì, quando la lista delle riforme greche deve arrivare, che l'Eurogruppo sblocchi i fondi venerdì, quando la lista delle riforme greche non arriverà fino a lunedì, a meno che i greci non anticipino i tempi, non sarei troppo certo che l'Eurogruppo decida di andare avanti un po' alla cieca. Fino adesso non l'ha mai fatto, anche perché è stato scottato dalle esperienze precedenti con i greci, quindi ecco, l'ultima domanda che ho per te, in realtà oggi è uscito anche un indice sull'area euro, l'indice PMI dell'Eurozona, che è salito 54 punti, insomma al di là dei punti a cui è salito, è ai massimi da 4 anni. Secondo te in questo momento, con il clima economico che c'è, la Grecia rischia di essere l'unico elemento, non dico rovinare una festa, perché non è una festa, ma rovinare un clima economico che sta oggettivamente migliorando? Beh, la ripresa c'è, è in corso per una serie di fattori. Il primo è che il crollo del prezzo del petrolio, che all'area euro fa bene. Il secondo è, come abbiamo ripetuto e avete ripetuto anche in questa trasmissione molte volte, il calo dell'euro, l'euro più debole che facilita le esportazioni. Poi c'è una politica fiscale che è un po' meno pesante di quello che è stata negli anni, diciamo che non è ancora di stimolo, ma comunque almeno non è una politica di contrazione come l'era stata negli anni scorsi. A questo si aggiungono le aspettative del QE, ancora di più del QE stesso, che è partito solo il 9 di marzo, che già ha provocato sui mercati delle condizioni del credito più favorevoli. Sì. Quindi la ripresa è in corso e sta migliorando. È chiaro che bisogna vedere quale colpo darà alla fiducia se ci dovesse essere un tracollo della situazione greca, insomma. L'idea che la Grecia, come ha qualcuno qui in Germania, possa uscire tranquillamente dall'euro, che non succeda niente a tutti gli altri paesi, soprattutto a quelli che, come ben sappiamo, sono più vulnerabili, mi sembra utopistico. Certo. Allora, vedremo venerdì e vedremo appunto se non vi sarà poi un'attesa fino a lunedì. Grazie intanto a Alessandro Merli, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte. Grazie a Barbara Bianchi e Pietro Lacorte per l'assistenza, e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica, e qui al Vinitaly. Noi domani trasmetteremo dalla nostra sede abituale di Milano, altri programmi saranno in diretta dal Vinitaly di Verona. Da Sebastiano Barisoni intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente. Focus Economia.